24 mattino. Una gentilezza, evitiamo per cortesia di legare la tenuta del governo alle elezioni in Emilia-Romagna. Cioè, in Emilia-Romagna c'è una persona seria che ha fatto un buon lavoro e che secondo me va premiata e andrà e continuerà a governare. Nello Stato centrale ci sono 4 cialtroni scappati di casa che è giusto che vadano via a prescindere da quello che succederà in Emilia-Romagna. Le autostrade italiane da guardare sono belle, sono asfaltate bene, con i guardrail, però il problema è che quelli sono lavori sì importanti, ma di impatto ai costi di bilancio relativamente bassi. I grossi lavori strutturali in realtà l'Italia ha guardato bene da farseli. In sostanza abbiamo sempre dato una bella verniciata alla casa, ma mai qualcuno che sia andato a vedere le fondamenta o le tubazioni. La verità è questa qui. Oh, su questo secondo tema arriveremo tra un attimo, perché ci sono due giornali, La Stampa e La Repubblica, che hanno degli elementi interessanti che hanno a che fare soprattutto con le gallerie. Sulla prima questione, sul collegare le elezioni in Emilia-Romagna a quello che succede a livello nazionale, beh, è difficile non farlo, amico mio, È difficile non farlo, soprattutto per il Partito Democratico. Dico, a prescindere da come la si pensi, su come ha lavorato Bonaccini. Siamo alla terza parte di 24 mattino, seconda parte di 24 mattino, ciao, è venerdì, e un po' di stanchezza inizia a farsi sentire, sono le 7:21 minuti. Al microfono sempre Simone Spezia ed è la parte dedicata alla rassegna stampa, quello che troviamo sui quotidiani. Con le prime pagine, dicevamo, quelle della Stampa della Repubblica dedicate a questa vicenda delle gallerie che già in parte avevamo visto nelle settimane scorse sul Sole 24 Ore ed è sempre stato Maurizio Caprino a firmare questi pezzi. Nella fattispecie si parla di un documento del Ministero nel quale si parla di 200 gallerie a rischio. Allora, a rischio è una parola forte, ovviamente, perché si parla, e ci arriveremo tra un attimo, di gallerie in realtà che hanno bisogno di un adeguamento sulla base delle nuove normative europee. Ci arriviamo tra un attimo, però è l'apertura. Genova, indagine shock, a rischio 200 gallerie sulle autostrade italiane, il titolo della Stampa. A rischio 200 gallerie, quello della Repubblica. Il Corriere della Sera intervista Luigi Di Maio e dice: sulla Libia basta attacchi al presidente del Consiglio Conte, ed è questa l'apertura. Il Messaggero sostiene che Haftar alza il prezzo della tregua. Sarraj ha detto sì allo stop alle armi, ma il no del generale che continua l'avanzata. Il Fatto Quotidiano si dedica specificatamente alla politica e ha una notizia importante a proposito di Emilia-Romagna. Di Maio vicino a lasciare la guida dei 5 Stelle, mossa forse già prima delle regionali. La politica anche sul giornale, Grillini in rivolta, ci teniamo i soldi, i parlamentari chiedono meno Di Maio e meno prelievi. Libero parla di un governo pattumiera che non conta più nulla nel mondo. La Verità sostiene che c'è l'impronta di Mattarella sul disastro libico di Conte. Il presidente, che ha fatto da scudo al premier nella sua ostinazione a tenere le deleghe sui servizi, era informato dell'operazione Haftar Sarraj, poi miseramente fallita. Il muro di Londra è il titolo del Manifesto. Si parla dell'ipotesi dello stop al programma Erasmus Plus da parte della Gran Bretagna. Il Sole 24 Ore apre sulle pensioni. Progetto quota 102, pensione a 64 anni con 38 di contributi, sarebbe l'ipotesi sulla quale sono al lavoro i tecnici del Ministero. Sperare la pace, il titolo di Avvenire, sono parole del Papa. E infine la Gazzetta dello Sport, che consegna una notizia interessante per i milanisti. Futuro al Max, il piano per la rinascita prevederebbe l'arrivo di Allegri. E va bene, Iniziamo da qualche notizia un po' diversa da quelle principali e iniziare da vicende che sono, guardate, scoccia e restare, insomma, parlare di quelli che appaiono un po' dei cliché, però su vicende tipicamente italiane. E la prima ce la consegna il Sole 24 Ore con un pezzo di Vera Viola che racconta il triste destino di chi si occupa di bonifiche in Campania. Giunta al termine della gestione commissariale, dal 17 dicembre scorso, ci racconta Vera Viola appunto a pagina 8 del Sole 24 Ore, nessuno più si occupa di bonifiche in Campania dal 17 dicembre. Sì, proprio nella regione che fu duramente colpita dall'emergenza rifiuti, quella delle numerosissime discariche legali e illegali da bonificare, dei traffici di veleni e della terra dei fuochi. Il commissario di governo, Mario De Biase, nominato per la prima volta nel 2010 con un'ordinanza di protezione civile dopo aver ottenuto numerose proroghe, per lo più brevi periodi, ma comunque nell'arco di un decennio, da poco meno di un mese ha dovuto abbandonare il campo. Ora, Regione Campania e Ministero dell'Ambiente si scambiano reciprocamente l'accusa di non aver provveduto a evitare la vacatio. Allo stesso tempo, ciascuna delle due istituzioni, inspiegabilmente, si guarda bene dall'intervento. E quindi quello che succede è che Regione Campania e Ministero dell'Ambiente litigano su chi non ha nominato il nuovo commissario alle bonifiche e però nessuno provvede. E sì, che il lavoro di Mario De Biase, racconta appunto Vera Viola, è stato un buon lavoro. Prende l'esempio di Resit, il nome della discarica più grande avvelenata dell'area, 60.000 metri quadri, due crateri carichi di 1 milione di metri cubi di rifiuti, di cui 380.000 metri cubi di scarti industriali, un vulcano di veleni. Il 15 luglio 2019 i lavori sono stati ultimati, con 6 milioni la discarica è stata messa in sicurezza. Non disperde più percolato né biogas. È stata trasformata in un parco con 500 alberi piantumati, con due grandi murales di Iorit che simboleggiano il ritorno dell'area alla legalità. Il 29 luglio il parco è stato inaugurato, ma le istituzioni invitate inspiegabilmente non hanno partecipato. E questo lo trovate sul Sole 24 Ore, il racconto di Vera Viola, che poi prosegue con ulteriori dettagli. Altre storie tipicamente italiane. Sul Giornale, a pagina 17, Paolo Bracalini ci porta in Calabria per gli impianti di sci chiusi causa neve. Lo strano caso della pista in Calabria. Impianti da sci chiusi causa neve, scrive, un po' come dire stabilimento balneare chiuso perché c'è il mare vicino, ma nulla è impossibile in Italia, tantomeno in Calabria. Sull'altopiano della Sila, a 1500 metri, nel comune di San Giovanni in Fiore, c'è il centro Fondo Carlo Magno, il più grande comprensorio sciistico di fondo della Calabria, nonché quello più a sud dell'intera Europa. Sarebbe perfetto se non nevicasse. Sì, perché il problema è che per arrivarci c'è una strada e se nevica la strada si riempie di neve. Chi la deve togliere questa neve? Non è mica una domanda semplice. Infatti, mentre nei giorni delle feste natalizie, dopo una serie di nevicate spettacolari, arrivavano migliaia di turisti armati di sci e racchette, è partita tutta una diatriba burocratica su quale fosse l'ente al quale spettava l'incombenza di spalare la neve sulla strada e rendere così raggiungibili gli impianti. Al comune di San Giovanni in Fiore? A quello di Casali del Manco? All'ente Parco Nazionale della Sila? O magari alla provincia di Cosenza, che se n'è poi lavata le mani? La struttura è nel comune di San Giovanni in Fiore, ma è anche vero che la strada provinciale è a sua volta raggiungibile da una strada intercomunale. Morale, nessuno spala e il più grande complesso sciistico della Calabria, sci di fondo appunto del Mezzogiorno, sostanzialmente non è raggiungibile da chi vuole fare fondo. Ci spostiamo adesso su un tema invece che abbiamo affrontato l'altro giorno con Maria Latella, anzi ieri con Maria Latella, ed è quello delle vittime sulle strade e di chi beve al volante. C'è un protocollo sottoscritto ieri di questo ci informano un po' di giornali, quello che lo fa un po' più diffusamente il Messaggero a pagina 13, tra il ministro dell'interno Luciana Lamorgese e l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per cui anche la polizia locale entrerà in campo contro alcol e droga, cioè partiranno finalmente dei controlli, inizialmente soprattutto dalle città metropolitane, che verranno sono affidati alla polizia municipale. Ci saranno etilometri usa e getta e pattuglie vicino ai locali. Verranno mappate le aree a rischio. Si parte dalle città metropolitane e poi l'accordo si estenderà. Qua sotto viene riportato anche un pezzo di Lorenzo De Cicco che riporta i timori del Campidoglio, perché mancano 2000 agenti e uno su tre degli agenti della Polizia Municipale di Roma lavora in ufficio e quindi non è sul terreno, e sarà difficile far applicare tutto questo. E però forse il racconto più triste, più doloroso e che forse può anche dare un segnale, lo troviamo a pagina 19 della Stampa, in un'intervista realizzata da Grazia Longo con Daniel Cuccato. Chi è? 3 anni fa, 26enne, aveva bevuto, uscì di strada nel Vercellese e le amiche che erano a bordo con lui, di 23 e 21 anni, persero la vita. Sta per arrivare la sentenza di Cassazione e il racconto di Daniel Cuccato è quello di una persona devastata. Dire che sono devastato è riduttivo. Anche io sono morto alle 7:20 del 23 ottobre 2016. Ma Rosaria e Silvia non ci sono più, lei invece qui a rievocare quei momenti drammatici. Gli chiede Grazia Longo. Io parlo, cammino, lavoro, sembro uno normale, ma sono solo il fantasma di me stesso. Quella mattina sono morto anch'io. Perché? Rosaria, Sara, per noi amici, e Silvia erano amiche della mia fidanzata, le conoscevo da 1 anno e mezzo. Dopo la notte in discoteca mi ero offerto di accompagnarle a casa e mi sono morte tra le braccia. Non potrò mai dimenticarlo. La gente non mi crede, mi vedono in giro e per quello pensano che faccia la mia vita come se niente fosse. Non è così. Le mie giornate sono tutte uguali. Mi alzo, vado al lavoro, faccio il saldatore, torno a casa, non esco più, non ho più amici, non ho più una vita. Ed è la storia di una persona che si è resa responsabile sostanzialmente per aver bevuto della morte di 2 ragazze. Restiamo sulle nostre strade. C'è questa storia delle gallerie, lo dicevamo, insomma in parte era già emersa sul Sole 24 Ore delle settimane scorse in un pezzo firmato appunto da Maurizio Caprino. Che cosa c'è? C'è un rapporto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero delle Infrastrutture, ne trovate traccia a pagina 3 del quotidiano La Repubblica e a pagina 2 del quotidiano La Stampa, un documento nel quale si segnala che ci sono 200 gallerie che necessitano di interventi strutturali. Che tipo di interventi? In alcuni casi manca l'impermeabilizzazione, in altri sistemi di sicurezza, di corsie di emergenza, vie di fuga, videosorveglianza, sensori di rilevamento dei fumi, sistemi di allarme antincendio, luci di guida in caso di evacuazione, stanze a tenuta stagna, il tutto in osservanza di una direttiva europea, la numero 54 del 2004, e ci sono queste 200 gallerie, quelle sopra i 500 metri, tratta di gallerie sopra i 500 metri, che non sono appunto a norma sotto questo aspetto, cioè più che a rischio non sono a norma, alcune naturalmente saranno anche a rischio, e là si spiega anche il crollo del 30 dicembre nella galleria Bertè sulla A26 che collega Genova, Voltri con Gravellona, Toce in Piemonte, che vi abbiamo raccontato. A chiudere questa parte, La Stampa affianca anche un reportage di Marco Menduni che viene inviato sulla Statale 1, la Aurelia. Chi non ha percorso almeno una volta, insomma, tra chi guida, chi non ha percorso mai l'Aurelia, la Statale 1, nella fattispecie siamo appunto solo nel tratto ligure. E si racconta che tra chiusure e strettoie, ora che la circolazione autostradale è problematica, perché in genere uno per fare quel tratto magari può anche prendere l'autostrada, ma adesso è più difficile, ebbene, per fare il tratto dal Levante al Ponente Ligure ci si impiegano, attenzione, 10 ore. Pausa. Eccoci di nuovo, Paolo Mieli, buongiorno. Buongiorno a te. Eccoci direttore, iniziamo direi dall'Iran e della tensione che si è un po' allentata, abbiamo già parlato. Adesso la notizia che domina la scena ovviamente è quella del jet del Boeing ucraino con a bordo oltre 170 persone, tra cui 63 cittadini canadesi, e che a questo punto dicono i servizi di vari paesi sarebbe stato abbattuto da evidentemente un errore iraniano. Stamattina ho fatto un salto sulla sedia quando ho letto l'articolo del Sole 24 Ore di Riccardo Barlam, non già per la notizia generale che tu hai riassunto, ma perché riporta tra virgolette la dichiarazione del premier canadese Justin Trudeau, che è molto netta, nel senso che i servizi segreti americani dicono: beh, c'è un'alta probabilità che questo aereo sia stato abbattuto da un missile iraniano. Trudeau, fra virgolette, dice: è sicuro, noi abbiamo le prove che è stato abbattuto. E dopo questa dichiarazione di Trudeau, come tu hai ricordato, Trudeau parla perché in questo aereo ucraino c'erano 63 cittadini canadesi. Dopo questa dichiarazione, dicevo, la Gran Bretagna si è associata al giudizio di Trudeau. Sai cosa ti dico? Che questo incidente terribile, luttuoso, la morte, erano appena partiti dall'aeroporto e l'aereo è stato probabilmente, io uso il termine ancora, probabilmente abbattuto per sbaglio dagli iraniani, però facilita una composizione della crisi. Bisogna essere cinici in questi momenti, sapere essere anche cinici e dire che in fondo un errore che mette in imbarazzo il governo iraniano lo spinge a essere prudente nelle reazioni, perché nelle reazioni all'uccisione di Soleimani, ricordiamolo che era stato ucciso esattamente una settimana prima dagli americani, diciamo, questo riconduce il regime di Teheran a più miti consigli e in particolare fa vedere che Trump è meno isolato di quanto sembri nell'Occidente, perché insomma sanno benissimo questi paesi che facendo dichiarazioni così nette, lo sottolineo, così nette, aiutano una mano a Trump. E guarda, leggi anche, leggiamo tutti l'articolo di Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore: la crisi in Medio Oriente non scalfisce la popolarità di Trump. Attenti, noi abbiamo pensato in un primo momento che Trump potesse trovarsi in imbarazzo per questa azione così estrema che aveva compiuto. Non in è realtà, così. Leggere tutta la pagina, gli articoli sono nella stessa pagina, tutta pagina 19 del Sole 24 Ore, questo è il consiglio che do stamattina ai nostri ascoltatori. A proposito di crisi in Medio Oriente, o meglio di crisi, fronti di tensione internazionale, siamo alla questione libica e a questo tentativo, a questi tentativi, no, delle ultime ore dell'Italia di recuperare qualcosa dopo la gaffe, il problema, no, con Haftar. Ieri il Presidente del Consiglio, lo ricordiamo, l'altro ieri il Presidente del Consiglio ha ricevuto il generale Haftar e al-Sarraj, il premier di Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha detto: a questo punto io in Italia non ci vengo e Conte non lo incontro. L'Italia sta cercando di recuperare, missione di Di Maio, Conte che partirà lunedì, no, per un tour nel quale sarà anche, incontrerà anche Erdogan, e oggi il ministro degli esteri che si fa intervistare dal Corriere della Sera, no, e difende Conte. Questa intervista sì, lo difende, però è una difesa pelosa, perché questa intervista va letta più per le domande che per le risposte, nel senso che le risposte sono molto evasive, cosa non infrequente per il ministro Di Maio, e senza specificare cosa dice: attacchi gratuiti al premier, io sono dalla sua parte. E attacchi, non dice quali sono gli attacchi gratuiti. È come se io di te dicessi: tutti dicono che sei un mascalzone, ma io ti difendo, ti voglio difendere. È un'infetizzazione degli attacchi, senza, perché poi lo difende, ma senza difenderlo, dire, nello specifico, no? Dai singoli, esatto, attacchi, senza dire, certo, nello specifico in cosa lo difende. E insomma, questa gaffe di Conte è stata qualcosa di più di una gaffe, innanzitutto perché ha dato la prova che Conte va per i fatti suoi, Di Maio va per, anche lui per i fatti suoi, e tutti e due non cavano un ragno dal buco. Ci sono editoriali, fiori di editoriali come quello di Franco Venturini sul Corriere della Sera, che spiegano anche perché, cioè l'Italia sostanzialmente è stata estromessa da ogni gioco in Libia, e il tentativo di rientrare come mediatori, come quelli che offrono un tavolo per le trattative, è appunto un tentativo un po' a tratti un po' ridicolo. Comunque, quando uno fa uno sforzo per la pace, bisogna sempre lodare uno sforzo per la pace, e lodiamolo pure, ma non credo che sarà questa la via. Ormai gli attori principali in Libia sono quelli che sanno, che all'occorrenza sanno mandare anche delle truppe, certo. La Turchia, la Russia, oltre ovviamente ai soggetti impegnati, Haftar e Sarraj, l'Egitto, sì. Insomma sono persone quelli. Che non si limitano a dire sì, pace, dialogo, questo è troppo poco. Il traffico, e poi veniamo alla politica, partendo direi proprio da Luigi Di Maio. Mattino. Luigi Di Maio, per il quale la notizia ci arriva dal Fatto Quotidiano. Secondo il Fatto Quotidiano, Di Maio sarebbe vicino a lasciare la guida del Movimento 5 Stelle, una mossa che potrebbe intraprendere già prima delle elezioni regionali, no? Paolo Mieli, insomma, le tensioni sui 5 Stelle e su Di Maio si addensano, le troviamo un po' su tutti i giornali, eh? Sì, l'articolo... Uno degli articoli fatti meglio è quello di Manuela Perrone, a pagina 7 del Sole 24 Ore, il Movimento 5 Stelle nella bufera. Ci sono nuovi addii, tra l'altro, altri che se ne vanno, e un documento molto importante contro Di Maio Casaleggio. Due deputati passati al misto, un'altra decina seguirà Fioramonti. Nel testo dei tre senatori, stop al capo politico, sì a un organismo collegiale. E su questo cala la bomba del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, quando parla del Movimento 5 Stelle, avendo fonti interne di primissima mano, insomma, è come se fosse l'organo ufficiale del Movimento, come se, perché poi non lo è, a volte critica anche 5 Stelle, dicevo, Fatto Quotidiano annuncia che Di Maio si dimette, getta la spugna, dice addirittura prima, come tu hai appena riferito, dice addirittura prima delle elezioni in Emilia, che sono il 26 gennaio, quindi subito. Magari sarà poco dopo, anche perché in queste elezioni in Emilia, come prevedono tutti i sondaggi, si dovrebbe registrare un vero e proprio crollo del Movimento 5 Stelle, che andrebbe a percentuali molto sotto il 10%, si parla fra il 5 e il 6%, ora magari i sondaggi sbagliano, sarà di più, però lì siamo, quindi continua, anzi si diventa più forte il sisma dentro i 5 Stelle. Nel frattempo cosa fa il resto della politica? Prende tempo, questo non è una novità, prescrizioni, ipotesi blocco soltanto per le condanne, referendum sul taglio degli eletti in bilico, il soccorso della Lega, è un articolo di Emilia Patta, sempre sul Sole 24 Ore, insomma. La politica si regge, guarda, questo lo dico, lo dice benissimo l'editoriale di Stefano Folli sulla Repubblica, si regge solo ed esclusivamente sul rinvio, cioè le decisioni prese una volta per tutta non ce ne sono più, questa è la politica italiana in questo momento. In questo momento, e qua anche la risposta all'ascoltatore che abbiamo mandato prima, a cui voce abbiamo mandato prima, ci ha mandato un messaggio WhatsApp dicendo smettetela di legare la questione delle elezioni in Emilia Romagna alla politica nazionale. No, il fatto che la politica sia ferma in questo momento dipende, no Paolo, esattamente da questo, vogliono vedere come va là e poi decidono che cosa fare, forse anche della coalizione. Se vuoi una mia previsione, dopo le elezioni in Emilia Romagna, se vince il centrodestra viene giù tutto, ma se vince il centrosinistra, a questo punto, siccome non vedo venire fuori idee forti, io penso che questa politica del rinvio, non in maniera così clamorosa come adesso, però in maniera abbastanza evidente continuerà a essere, cioè si faranno riunioni, spesso riunioni notturne, poi si rinvierà una cosa successiva. La politica, la cifra del rinvio è la cifra di questo governo. Allora, ti porterei alle, di nuovo all'estero, però nella fattispecie in Francia, dove ci racconta, pagina 5, Riccardo Sorrentino, e poi c'è un buon commento, se non vado errato, sulla Stampa di Mingardi, del fatto che siamo in Francia allo sciopero più lungo dal 1968, sono 36 giorni, anche se c'è un calo della partecipazione. Sì, ma stamattina infatti lode all'articolo di Sorrentino sul Sole 24 Ore, ma i grandi giornali europei, non solo quelli francesi, Libération, Figaro, ma anche Financial Times, danno un enorme spazio a questo sciopero, perché come tu hai ricordato è uno sciopero contro la riforma delle pensioni, i sindacati sono in piazza, c'è meno gente perché Sorrentino stesso dice che dopo 36 giorni cala la partecipazione, però il quadro politico è incrinato, la maggioranza dei deputati di Macron spinge perché adesso il governo riveda quella norma, faccia delle concessioni sull'innalzamento dell'età a 64 anni. Insomma, è uno sciopero che riesce ad avere ragione, sembra di essere tornati a metà del Novecento, uno sciopero che riesce a piegare un governo come non se ne vedevano da tempo nel quadro europeo. Quindi esorterei tutti i giornali a seguirlo più da vicino, anche perché spesso sotto nelle vacanze di Natale, ti ricordi, ne abbiamo parlato in questa rassegna stampa, paralizza la Francia. Sì, come si diceva, commento di Alberto Mingardi sulla Stampa, un po' cattivo, no? Nei confronti degli scioperanti, dice la Francia perché 36 giorni di sciopero sono un rito antiquato, e si conclude con la frase: gli scioperi che abbiamo conosciuto nella seconda metà del Novecento si basavano su una premessa implicita, ci si appellava alla politica pensando potesse risolvere tutti i problemi, non era vero allora, lo è ancor meno oggi, a testimonianza di una certa debolezza appunto della politica stessa. Secondo me ha perfettamente ragione sulla risoluzione dei problemi, però riescono a piegare un governo come sta accadendo in Francia, cioè il successo per gli scioperanti è quello di avere norme più vantaggiose, non è quello di avere un punto equo, magari gli scioperi perseguissero il punto equo, ognuno persegue i propri interessi. Abbiamo parlato degli anni 60, della fine degli anni 60, riferendoci allo sciopero del appunto francese. Ti porto indietro nel tempo, ma in realtà con qualcosa di attuale, ed è la sentenza sulla strage di Bologna. Arriva l'ergastolo per l'ex NAR Cavallini. Le cronache le trovate un po' su tutti i giornali, le avete sentite anche in GR24, Paolo. Certo, è una sentenza importantissima. Perché pur essendo una condanna, mi sembra, di primo grado, perché conferma la famosa sentenza che condannò Mambro e Fioravanti dei NAR, cioè di un gruppo di estrema destra, per la strage di Bologna. Ora, quindi questa è una sentenza di seguito, tutti questi imputati, compreso Cavallini, si sono detti colpevoli di una quantità di delitti commessi negli anni 70 e 80 per i quali sconterebbero ergastoli su ergastoli, tranne, dicono, guardate, noi con la strage di Bologna non c'entriamo niente. E lo stesso anni fa, lo stesso Presidente della Repubblica Cossiga sembrò dar retta a queste obiezioni dei condannati, tant'è che Filippo Faccio oggi sul Libero, nel parlare di questa sentenza, dice: ergastolo all'ex NAR Gilberto Cavallini per il massacro del 1980, anche se tutti, parentesi, tranne i magistrati, sanno che è innocente. Poi se la prende coi tempi, dice: questi sono i tempi dell'ingiustizia. Quindi prevedo un seguito di discussione su questa sentenza, perché non è vero che solo i magistrati e i parenti delle vittime sono convinti che quella è la pista giusta, che siano stati neofascisti, anzi chiedono: ma chi c'era dietro, chi glielo ordinò, perché i neofascisti avrebbero dovuto fare quell'attentato a Bologna nel 1980. Tutti gli altri, o moltissimi altri, compresi ex presidenti della Repubblica defunti, ma anche politici oggi in attività, dicono: guardate, è credibile la difesa di Mambro, Fioravanti e Cavallini, che dicono: ma no, noi diciamo abbiamo ucciso questo, questo e questo, non è che lo facciamo per evitare quella colpa, ma non c'entriamo assolutamente niente. Paolo, abbiamo gli ascoltatori divisi esattamente in due. Ci sono quelli che dicono: chi se ne frega dei reali inglesi, e invece quelli che sono interessati a ogni singola mossa di questa vicenda, Harry e Meghan. Tu in che schieramento sei? Io mi vergogno a dirlo, ma sono fra quelli che sono interessatissimi, e oggi, questo non dovrei confessarlo pubblicamente, quando ho studiato Sole 24 Ore, il primo articolo che ho letto il primo, molto, fantastico, molto molto ben fatto, perché guardate, per risolvere la questione vi consiglio di vedere su Netflix The Crown. Esatto. Sì. La vicenda della corona inglese è molto interconnessa con tutta la storia politica della Gran Bretagna, che è ovvio, ma anche la storia politica mondiale. Cioè, non si conosce bene la storia dell'Ottocento e del Novecento se non si conoscono bene tutte le vicende della casa regnante inglese. Non è solo una cosa di bellimbusti coronati o aspiranti alla corona che vivono tra i lussi. Sono storie complicate, molto interconnesse con la politica. Ma quindi, forse il mio è un alibi per perché, perché in realtà perché sono morbosamente attratto dalle vicende della corona inglese, e quindi mi scuso, però lodo il Sole 24 Ore che mi ha dato uno spunto oggi in questo niente articolo. Male. Grazie a Paolo Mieli, che ritroviamo ovviamente lunedì. Ci dice l'ascoltatore: datemi notizie sui reali, altrimenti non dormo più. Vai, ci fermiamola. C'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. Ciao.